ci sei, buonasera. Franco, esci dal guscio, dai, ci sei? Franco, ci sei, buonasera. Uniform Sierra Bravo, eh. Uniform Sierra Bravo. Cosa ci fai qua? Ciao Franco, buonasera. Uniform Sierra Bravo. Uniform Sierra Bravo. Com'è? Buona, buona. Ti gusta? È fatto Franco? È fatto quello che dovevi fare? Sta a posto? Sì, mi aveva confesso domani mattina e positivo. Io oggi stavo facendo un po' di ordine fuori, tagliando erba, tagliando alberi, tagliando un po' di tutto, dai. E poco fa mi sono sentito anche continuo, e niente. E stasera ce la dedichiamo a questa banda, è una bella banda. Va bene. Sei col K, Fra? Cava. Così ripeto un attimo, fammi un passaggino. Questo esce così qua, esce. Non ho mosso niente, ti ascolto perfetto. Io ti ascolto benissimo lo stesso. Niente da obiettare, niente da dire, ed è tutto positivo. Sì. Stasera non hai avuto un attimino di tempo, così è Fra. A me è smullato tutto, ma io più caro, c'è. E quando stai tutto il giorno, io stesso ero qua tutto il giorno facendo fuori qua in campagna, però dovevo farlo perché c'è già la gramigna, in alcuni punti ci sono già i forastacchi in sboccia, c'è fuori in testa, bassi. Quella roba lì, quella cresce e fiorisce subito. Ma io gli do una passata di ecce spogliatore una volta alla settimana e lei ha poco da fiorire. Il diserbante non gli fa niente. Ma lo sai cos'è, Fra? Io sugli animali non voglio che li faccia male a questi cani, capito? Quello c'hai ragione. Sì, allora sì. No, il problema, se non avrei avuto i cani, non mi sarebbe interessato nulla del forastacco, capito? Perché io non è che vivo fuori, io vivo dentro casa. Ma il problema sono i cani, che devo stare attento a loro, capito Franco? Quindi devo curarlo e non posso neanche mettere, perché me l'ha detto anche Tino che c'è questo diserbante, però non so se va bene a contatto con gli animali, perché loro mangiano da sé, mangiano erba, mangiano il dutu, stanno giocando e non so se gli fa male oppure glielo posso dare tranquillamente, ma credo di no. Ti devi informare e poi agire, perché se penso che gli faccia male, penso, però diciamo che è sempre una medicina. Esatto. No, ma io sono convinto che, diciamo, rasando anche una volta alla settimana, attacchi di cespugliatore o un'ora al giorno, quando rientro gli do una passata di cespugliatore, faccio un'oretta al giorno e penso di tenerla sotto controllo. Poi io non vi posso fare nulla. Certo, non ci puoi fare niente, no. Vabbè, a meno che non stai immediato e mi ricordi la radice. Ma è una cosa impossibile, Fra. Cioè, 7.000 metri a zappa mi faccio. Certo, 7.000 metri. La gente se ne va di 2-3 ettari. A zappa? No, non vi credono. Una volta li facevano. Una volta la zappa. Adesso io sinceramente non ho voglia di farmi tutta la campagna con la zappa, ma assolutamente, ma non se ne parla proprio. Posso farmi un'ora al giorno di cespugliatore, capito? Un'ora al giorno di cespugliatore me li posso benissimo fare, poi intanto io ho gli irrigatori e d'estate me lo tengo verde e con rasa erba mi faccio quello che mi interessa. L'altro lo lascio a terra, giù a tutti, chiamo il trattore e faccio passare il trattore, però il pezzo dove me lo voglio tenere verde per giocare la bambina, per farmi qualche spuntino, e quello lì con rasa erba, perché io c'ho anche rasa erba piccolino, con rasa erba me lo faccio, 1.000 metri te li fai, ti vuoi una bassigliata e te li vai, capito? Ma a zappa, ne manco li bruciavi, tu vai di più, 7.000 metri a cavà. Lo so. vabbè. Portate, vabbè, quella un'erba che è fastidiosa a toglierla anche, specie di Africa d'India. Ma stai scherzando, L'altro giorno ho visto una cosa che ho detto, tu non sei sano. Scendendo a Porto Torres, nel rettilineo dopo l'incrocio della Budibudi, diciamo, se tu fai un chilometro, no, e guardi sulla destra, c'è una recinzione fatta a nuovo, cioè proprio una recinzione fatta, costruita da zero, tutta con la rete da 2,20 metri, saranno a occhio e croce di 3 metri c'è una foglia di fico d'indio, in modo che lì cresca la pianta del fico d'indio, no? Ah, va, tu ne vuoi più? Adesso io spendo, no? Io spendo 1.000 euro, perché quella è la recinzione da 1.000 euro. Tra rete e paletti ci sono 1.000 euro, senza contare la manodopera. Ma secondo te mi compro la rete nuova e gli metto, gli metto il fico d'indio fuori che mi rompe la rete? Ma dici, ma la gente è proprio passa. Ho detto che il Covid ha fatto male a qualcuno. La Vega d'India, quella si allarga un bel, ne butta tutto, ne butta tanto. Le cose di terra di Muglia secco, figurati, ci sono le cose della rete. Ma infatti, ma io non ho capito il senso di questa cosa, cioè proprio ogni 2 metri c'è una, come si fa, no? Come classico fare, mettere una pala, una foglia, una bala di Vega d'India a terra, e poi da lì prende e cresce. Tempo 2 anni, chissà, una tabula d'asfalto. Sì, assicurando la recensione. Perché attraverso la Vega d'India non è passato giù. Sì, accidenti. Fra i fichi d'India agguanto una ceta e inizia quella pianta da radizi. Ma quello lì è, non lo so, quello è buttare i soldi. Metti dei cosa ne so, quei frangivento bellini che li devi modellare col coso, con quelle siepi, dai, sono belle, ma non i freni, ma non la Vega d'India, ma non mi sono fuori di casa. Se ne la gioco da bellende, io la sto cercando di togliere io i fichi d'India, perché mi fanno, perché basta che cada una pala e cresce un'altra pianta. Lo so. Quella, se ti cade da una parte e te la dimentichi, quella la fanghisura di Biasso. Sì. Perché uno dice, ma i fichi d'India sono buoni. Sono buoni una volta ogni tanto, un paio. Che se no, te lo dico io la trottatura. Non è che mi mangia tanto di Biasso, no? Magari. Sono buoni, e quanti ne puoi raccogliere, e quanti ne puoi regalare, e quanto ne puoi, ma porca miseria, non mi posso fare 50 metri di recinzione a fichi d'India. Infatti c'è molta gente che ce l'ha, che magari ha ereditato cose così, delle code in terra, chissà cosa. E ovviamente, allora, quell'erba che tu dici che c'è in campagna, la canna, e la Vega d'India è la cosa più maledetta che c'è. La canna, se non la pulisci bene il terreno, non se la muovi più. No, le canne te ne buttano in terra anche il muro. Io i fichi d'India li sto piano debellando, non lascerò una pianta, però le canne lo stesso, le canne vi chiamano le scavatore. O se no quelli che si fanno tutta la recinzione con gli oleandri, caipita, bella anche quella. L'oleandro poi per toglierlo è un problema. Ma tu, vabbè, già lo sai meglio di me, no? Che una volta che hai l'oleandro in campagna, io lo sai le lumache che io qua, ma tu non puoi capire, io qua ho anche le monze, però non le posso non le posso mangiare, perché sono pieno di oleandri, e l'oleandro è tussi, e la lumaca una volta che cammina sopra, e anche lei, sì. Quando la cucini rimane amara. No, ma poi fa male, fra, a meno che non la fai digiunare bene, non la fai spurgare bene, però io non mi fido, perché allora l'oleandro si dice che anche tagliandolo ci vuole la mascherina. Sì. Io una volta mi ho fatto le monotette, un anno, ma quanti anni fa adesso sto parlando, stavo ancora lavorando, stava piovendo la mattina e quando sono uscito alle 2 da lavorare mi sono fermato e mi ho fatto almeno un paio di chili di morzette, mi ho fatto, no? Sì, ma lì a Monterasso. Certo, quando li ho fatti sfoggare tutto, li ho tenuti un bel po', li ho tenuti. Tutta la vacca, erano a mare, non si puliva ni bagnare. No, te l'ho detto, qua è uno schifo, Bisogna togliere l'oleandro bisogna proprio toglierlo dalla radice con la massa, ne ho tolto due, però uno gli ho fatto tutto il, diciamo, lo scavo attorno con la pala, il picco, la zappa, l'ha già cantato a burlone e l'ha giù cotto un paio di straccagnate e mi è uscito. Però ne ho un paio che sono enormi, e di lì, quando è 2 anni fa, dalla strada li ho tolti, bugia, 2019 li ho tolti, dalla strada li ho tutti rasati proprio a terreno, proprio a terreno, infatti sono più alti di un vivo di la ruzzitorna, e non li innaffio mai, no, cresci, adesso settimana prossima mi tocca quelli della strada. A me una lanterna e lo bravai con un calamore a eliminarli. Sì, infatti bisogna che faccia venire qualche scavatorino e farli debellare, perché non si può proprio e... No, perché a uno a pale piccolo, cioè, non è una cosa che ci vogliono 20 anni. Ma cosa? Chi ha qualcuno che c'ha la perna, che c'ha, te ne crascia tutti in una vita, te ne crascia. Non lo sai la pulizia che mi avrebbe fatto. Beh, da una vicuta un terrabulo a cebo di viga. Noi dentro la perna, dentro la perna, avessi nei culi pure. Sì, qualche albero di fichi, qualche albero di coso, Baccaridae, Abaida, Bougainville, perché ci vorrebbe il trincia, ci vorrebbe un trattore, con il trincia, capito? In modo che lui col braccio prende dietro e mi tratta tutto, brucia l'altro canto, ti va giù, e poi il salvatore tolte le radici. Le radici ne vogliono tutti, sì, ma che se rimane lì si è ributtito. Sì. E poi... Inizia a vedere un po' d'ordine, perché invece di piantare quella roba lì, pianti, vai al coso, all'ente foresta di lì e compri, cosa ne so, 300 euro, 300-400 euro di piante e di e metti bordo a bordo, metti il mirto, metti queste cose qua. Il 705 uniform Sierra Bravo. Capito, metti quelle piante belle. L'abbiamo sentito. Sentito ne hai? Forse sta accendendo il 450 anche lui, vabbè. Vuol dire che aveva tutto spento lì. No, abbiamo fatto una chiacchierata anche poco fa, non qua, però diciamo nel nostro monitor di lì. E io l'ho puntato a 27.405 su, che c'era, sentivo un po' di roba dall'Italia, però poi ha calato tutto. No, io ho acceso adesso, proprio quando ti ho chiamato, solo che sono stato qualche secondo, qualche minuto, perché nei ritracciati, poi ho visto che eri qua. Sui tracciati, e ti dici non sto uscendo, vero? Sì che stai uscendo, Tino, buonasera. Ma è impossibile, aspetta. È basso, basso, vero, aspetta. Più alto, vero? se sei ritornato. No, ma ha problemi il microfono però, carissimi amici miei. Perché? Aspetta un attimino. Allora, ero in un altro canale, sono venuto qua, non riuscivo a entrare, non sono riuscito a accordare. Praticamente cosa è successo? Che non stavo uscendo neanche con 2 watt. Ho cambiato microfono e questo è quanto. No, ti copio bene. Ma stai usando il 45? No, adesso lo cambio però, era giusto per verificare un attimino questo qua, perché non riuscivo a entrare con l'MD100. Bisogna controllare le connessioni a quel microfono, secondo me è roba di... perché la portante la dà, però vai a modulare le connessioni, bisogna controllarle. No, ma è strano. Vabbè, dai, aspetta che dammi un minuto che passo con l'altro, dai. Sì, intanto c'è il nostro amico Franco in posteggio. Hai capito, Franco? Adesso attacca la macchina da guerra. Cazzo. Ehi, non scendi ai galloni. Sanremo non te lo stai guardando, Fra? Ma ce l'ho proprio, però senza voce, ce l'ho proprio in quel canale, il canale 1. Ho visto che non c'è niente in televisione. Io lo stavo seguendo, però non è che mi interessa più di tanto, è proprio Sanremo, non è una cosa che mi aggrada. Guarda, faceva schifo l'anno scorso. Quest'anno ha battuto un record. No, ma ogni anno, il bello è che ogni anno è sempre peggio. Cosa c'è, un bufone? C'è entrato un moto. Non è niente quello. Tanto fra poco l'Unione Europea ce li fa mangiare. Oh, sì, va bene. Sono qua, Sì, stiamo ascoltando. Avanti, Tino. Sono qua. Questo è l'unico, inimitabile, è sempre lui. Unico, inimitabile e insostituibile. Sì. Mettilo da parte, che dopo se lo ammazzi. Mettilo da parte, intanto tra un po' ce li dobbiamo comprare. No, mettilo in freezer, che intanto tra un po' ce li mangiamo. No, niente, sì, un bubone è entrato. Fatta buona ridiso, frittimi. Sì, intanto c'è tra un po' dovremmo fare la farina. Vai, fra. Capo. Quando... cosa, nel mio paese, no, tutto bella, c'era uno che di soprannome si chiamava Bufone. Quando vedevamo uno di quelli, via Bufone. Dove andremo a finire? Sì. No, adesso tutti quelli che trovo anche in campagna li ammazzo e... però devo cercare il punto da ammazzarli bene, tipo... come posso fare, come si fa col maiale? Lì ci vuole un ago fine, così è tipo. Sì, nel sotto... nel pietro, una testa. Comunque, per dirti quanto stia arrivando qua, 9.38, 9.38, la radio splendida, come quella di Franco, stessa è bella, siete quasi lo stesso segnale. Prova fra un attimino. Capo, a me modulati mi sta dando 100, 110 mi sta dando. Non c'ho compressore attaccato, niente, sono liscio di tutto, con l'MC60. Vai, Gardini. Sì, anche io, 100 watt, 90, 100 watt di picco, diciamo, in modulato, io riesco a farlo girare a pieno regime con questa roba che ho, perché mi dà sempre, non scendo, diciamo, modulati, non scendo mai sotto i 50, capito? Quindi mi dà una modulazione molto stabile. MC60 e Shure SM58, anche tuttino qua 935-938 modulati. Sì. Ammazza Marius per cortesia, Mari, ammazza un pochino, ammazzalo. Franco leggermente più alto, di una tacchetta, di una tacchetta. Io sto modulando con circa 60 watt, sì, 60-70, non di più. Bene. Dai, io avevo capito beh, perché te ne arrivi 9-10, però una cosa strana. A volte funziona di più e a volte funziona di meno questo smitter. Sì, dimmi Gavi. Ho detto che Franco, avendo una posizione più alta della mia, qualche punto S in più lo recupera, qualche punto S lo recupera, ma la radio è uguale? Va bene. No, è uguale a quella di Franco, ha la stessa timbrica, la stessa intensità, oppure sono uguali? Vai Fra. Diciamo che la timbrica è tutta diversa, dovrebbe essere tutta diversa, vero Tino? Siete entrambi chiari, diciamo che ci assomiglia molto l'intensità della modulazione, vabbè la timbrica no, perché uno l'ha parlata, l'altro idem, è differente, però la modalità di emissione va bene. Ok, perfetto. No, perché allora, vediamo un pochino la modalità di emissione. Io addirittura dovrei anche appena abbassare, stando alla regola, stando allo strumento, io dovrei appena abbassare, allora io posso fare così, vediamo un pochino, però devo abbassare un po' il mic gain della radio, eccolo qua, mi dà qualche picchetto in fuori, però lo lasciamo così. Vedi un po' se ha migliorato adesso e l'intensità, sono sempre con la stessa timbrica, però sto sollevando parametri. Bene, questo ha cambiato un pochino. Chi sei? È Pino che è uscito con tuo papperino. Sì, centratemi, uno, due, tre, quattro, cinque, sì, sono fuori frequenza, lo so, e un pochino, 105 e 30, ti copio perfetto. No, ma adesso mi sono messo a 105, giusto, 105, giusto, 1, 2, 3, 4, così, va grande, ma è fuori frequenza, Con questo qua sì, adesso hai fatto 105 e 40, ti ho copiato perfetto, Tu Fra. Quindi aspetta un attimino, mantene 105 giusto tu, e io mi abbasso di qua, aspetta. Però adesso lo ascolto bene a te. Ora mi dovresti sentire bene, vattene giusto, centrato, 105 giusto. Sì, no. Eia. Ti sei allineato o hai cambiato radio? No, ma mi sono allineato, tu vattene 105 giusto. Io sono a 105 giusto, scendi un po'. Ci sei, 105 giusto? Sì. Poco fa lo ascoltavo meglio. Sì, perché poco fa ero 450. Sono a 105 giusto. Come ascolti adesso? Guarda un po', 1, 2, 3. Fai un passaggio più lungo. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dovrei essere giusto ora, Sì, va bene, è accettabile. Fra, tu? Poco fa l'ascolto ascoltavo meglio, molto meglio di radio, era come che fosse una M. Ma io sto usando l'altro, guarda, sto usando l'altro piccolino. Ola, ola, guarda un po' quanto sta assolendo questa cosa. Adesso un po' migliorato, fra tu cosa dici? Sì, sì, sì. Sì, Tino. Aspetta un attimino, guarda un po', 1, 2, 3, prova, va bene così? Perfetto, sì. Aspetta. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, è migliorato? Mettilo come era prima. Bene, come era prima è così, 1, 2, 3, 4, 5. Va bene? Perfetto. Perfetto, perfetto. Guarda che segnale che avvio. Ora, ora. 9.50. Allora già va ancora. Eh va sì. Ah, ecco perché ha agganciato l'altro. Sì, però Franco, lo sai cosa ti dico? Che noi... diciamo a noi ci ha copiato 9.38, 9.40 a quanto ci ha detto lui. E lui però adesso sta, diciamo che c'è di un motore, lui gli sta dando motore come e mi è arrivato a me 9.50. 9.38 sono 20 dB in più, però quanto sono di potenza? Appena. 9 dB in più, cioè 20 dB, 22 dB in più, 22 dB in più da 100 a... ci sono i conti, cioè i conti tornano, quindi 20 dB sono. Sì, vabbè, ma... l'USB, la banda così non rende quanto per dire l'FM o la M, che te ne accorgi ancora di più, capito? Poi vabbè, siamo vicini, siamo. Stava dando intorno al picco massimo era 750, 750 watt. Infatti, allora, l'SSB ti accorgi che ti aumenta molto la radio, capito? L'amplificatore in SSB ti aumenta la radio, non è tanto il segnale ma è la radio. Comunque sono spostato di 30 Hz, di 30, e purtroppo ragazzi non ci posso fare niente. Ma noi ti ascoltiamo bene però. No, ma io però stavo modulando a 104,70, capito? Anziché 105. Capo, sì. E comunque, dai, sta uscendo bene. Diciamo che per me la banda laterale USB non rende tanto. Adesso se volete togliervi un ospizio, ma giusto per, se voi passate in FM, io sono sicurissimo che siete entrambi fondo scala. Sì, ma anche tu in FM arrivi fondo scala qua, cioè arrivi forte. Beh, provo ad andare in FM, va, provo. Ok, vedi qua c'ho 50 fissi, perché io l'ho tarato 50 fissi, mentre là come parli l'ago va via 100-110. Sì, guarda, io sto uscendo con meno di 5 watt, credimi, meno di 5 watt, quanto sono? 6,930. Adesso io lo porto, adesso magari vediamo, lo porto a 100 watt, avanti. K, tu l'altro, quando è? Da poco lo stavi usando eri a fondo scala, là, 9,60. No, ma per dire, Gavi, guardami la differenza che c'è, se io per dire adesso lo abbasso, così è come parlo per dire in AM, quanto sono Gavi lì? io ho attenuato a tutti e due, filtro IP e attenuatore inserito, e tu mi stai arrivando segnale 5 adesso, segnale 5, e Franco mi sta arrivando fondo scala attenuato. Guarda, adesso invece ho aumentato qualche cosina qua, appena appena, fondo scala. Se te l'ho detto, se ce l'ho detto, aspetta che abbassiamo, non mi interessa, va bene anche 5. Sì, ma è così, Tino, è così. No, oh, ma l'FM FM di più, dai, va, rende molto di più. Voi siete fissati con la M, voi siete fissati con la M. Porcazza la pupazza. Guarda, adesso io mi sto abbassando perché non mi interessa, proprio in FM, guarda, lo sto mettendo a 25 watt, top. 25 watt solo. Allora, io sono tutto attenuato qua, con le RP lo stesso, ti mancano due tacchette per arrivare a 9,60, ma io ho, credimi, due tacchette dallo zero, due tacchette, conta, proprio minimo, minimo, minimo, neanche 5 watt. Vabbè, siamo fissati con la M, siamo fissati con la M perché la modulazione è differente, attenzione, cioè, voglio dire, è molto più, più brillante, più prepotente, più amplificata, qua è una telefonata. Tu hai il processore, prima di tutto, abbia il rispetto. Ah, pure, devo dire anche quello, porca miseria, ce l'ha fatto, eccolo qua. Guarda, quanto è più chiara, Afra. Perché io non lo uso mai in, in FM e né in banda laterale, perché magari me la sporca la radio, vedi, il processore, guarda, adesso c'ho il processore inserito, com'è? Beh, non ha cambiato tantissimo, però è meglio senza. Sì, vabbè, io l'ho tolto, ma l'ho tolto perché dipende anche dal livello microfonico, Guardati, io ho il microfono della radio ce l'ho a 3, senza lasciare, tralasciando tutti gli aggeggi, però ho il microfono della radio a 3. E io ce l'ho a 2,5, sì, neanche a 3. Io ce l'ho a 3, e il carrier a 3. No, il carrier neanche a 1, a 1, forse a 1, a 1,5, neanche. Ah, appena proprio. Vabbè, ma ti sto dicendo che sono neanche 5 watt. Aspetta che lo metto io a 5 watt a vedere. Io due... Allora, schiaccio la portante, lo vedi lo zero, dove c'è scritto PVR, ci sono due tacchette, non di più. Adesso sì, 9,28 credo, prova. Sì, IP è attenuato, Guarda un po'. Vedi, cambiano le cose. Vabbè, aspetta un attimino, scusa Franco, aspetta un attimino. Fa un passaggio di nuovo. No, no, ce l'ho tenuto. Avevo un refigin addirittura aperto. Adesso l'ho chiuso. No, aspetta, 3 watt, così sono io, 3 watt, guarda, l'ho messo come te, vediamo, aspetta, 4, 3 watt. Eccolo qua. Allora, io ti ricevo con 20 dB di più, perché è così. sì, e beh. Non avevo dubbi. Mi è beccato quando mi sono alzato, prova, sono con tre, vabbè dai, dovrebbe essere 5 watt, tre lineette o comunque, dai. Che appoggio. No, a me 9.30, 9.30. Sì, però tu hai il filtro IP inserito? IP? Quale sarebbe? IP? Ah, beh, questo è quello, non sono allergico ad andare lì perché si paga troppo. No, c'è scritto, vabbè, ma non, quello non c'è. IP. È un tastino, non lo so se ce l'hai però lì, E poi cosa c'è da fare? Aspetta. Niente. Niente, solo quello. Qui c'è solo AMP, quello sì. AMP. Certo. RF AMP. Amplificatore. Diciamo che è l'amplificatore, sì, anche questo qua è un amplificatore. Prova a inserirlo e a disinserirlo mentre sto parlando, se cambia qualche cosa. Sì, da 9.30 vai a 9.50. Allora è quello, capito? È quello, è quello. Tu arriverai a fondo scala. Modula. Non ce la fa più andare. Tu sei sempre a fondo scala. Aspetta, io non ne uso di quei filtri lì, l'ho schiacciato adesso che me l'ha detto Tino, però se no ce l'ho io l'amplificatore, ce l'ho sempre staccato, sempre spento, e l'attenuatore lo stesso, non è inserito l'attenuatore. Ti amplifica, quando invece è acceso che ce l'hai nello schermo ce l'hai abbattuto. Adesso per dire a te ti ho portato a 9 perché con Refrain posso fare questo e l'altro. Vai fra. Capo. Allora, tu Gavi, se io lo disinserisco l'amplificatore, tu sei 9.40 qua da me, e se lo inserisco vai a fondo scala proprio. Oh Gabi, ho portato a Franco a Santiago 9, quando ha mollato hai parlato tu, sentivo solo la tua voce, un'attacchetta proprio mi alzi. No, no, no, Franco è 9 più alto di te. Sto andando con Refighini, eh? Sì, sì, hai detto bene. Di la verità però è fra, eh. Metti 50, capì? Eccolo qua, 50 watt. Fra? E sei a fondo scala da me, fondo scala blu, lo cammino a blu. No, vabbè, ma i segnali più lontano è meglio. Allora, Gavi, tu hai un attacchetto e meno di Franco. Perché secondo me lui è anche più in alto, ti dai, come segnale ti arriva meglio Franco di me. Sono anche più grande di te. Insomma, devi dare insomma un po' di... è vero, più grande, devi un po' di rispetto ci vuole. Allora, comunque, DX non ne dobbiamo fare, me lo spengo questo che mi sta cercando. Quale? Questo affare nero. Aspetta, lo spegniamo, va. L'ho messo in stand-by anche perché ho detto magari serve per fare qualche collegamento. No, no, ero sul 40 e c'era, ho fatto 40 e 27.555, c'era qualcosa, però è finito tutta l'emozione, quindi sono sceso, sono passato a cuccia e niente. Scusate se si sente il rumore di QRA, però c'è mia moglie che sta passando il folletto. Sta passando il folletto e credo di buttarlo, di romperglielo, di sbatterlo a terra. Sì, sì, sì, penso proprio, lo sto guardando e penso proprio di sbatterlo a terra se non lo spegne. Lo vedi, lo fatto, dai, lo vedi. No, ma non disturbava più di tanto, a parte che ti annettava la trasmissione. No, non è vero, eh. Di più. Io. E niente. No, se vuoi lo posso alzare, se vuoi lo posso. Sto andando col minimo indispensabile di amplificazione, non ti preoccupare, non faccio le solite malachelle. Se vuoi lo alzo, riesco, è a Franco di radio, lo sotterro. Vai, Franco. Non fai niente del radio tu. Perché io tutto quello che va in più a Sandà. Ecco. Cosa fa? Franco, ma ci siamo. Aspettate che c'è stato un break, avanti. Spezza un Kit Kat. Aesetta, Mudu, vai Antonio. Buonasera a tutti. Vabbè, buonasera a tutti, senza dimenticare nessuno. Mi ero addormentato, poi sono risvegliato e sentito voi. Un bel stanco sono. Ciao Antu, però devo essere sincero, dovresti aumentare un po' la modulazione, perché con le radio che hanno quei due grinchellini lì devo stare alzare, abbassare. Posso ancora vedere un po'? Perché lì sembra così, son brutti, sono monelli, sono. Lo so. Tutta la difende roba, mamma mia. Tra con Saramotto e andare a travagliare che ha preso a pezzi. Insomma, non vai a lavorare e ti lamenti. Vai e ti lamenti. Dimmi tu cosa vuoi fare. Ma per carità, ho detto, tra aggiustare la moto, più che altro è appunto la moto che mi ha crepato. E andare a travagliare, ma ho staccato molto oggi. No, se avessi solo lavorato sarei stato tranquillo. Andare, e vabbè, tu penso che sto aggiustando la macchina io, anzi sto facendo aggiustare la macchina io, che non mi stanco io, ma mi stanca il portafoglio. Lo so, ho dovuto aggiustare la moto, e ho dovuto giambare i pezzi, era un po', un po' vecchiotti, adesso è giunto il momento giusto oggi. Ma vai, è un treno, ma devo andare piano, ma cosa è nuovo, capito? Sì, sì, sì. Anto, ma non busco una motoretta così per mettere nel camper? Così quando mi serve il pane vado in moto anziché muovere il camper, no? Lo sto chiedendo, a un po' di gente, sto chiedendo. Insomma, da non spendere grandi cifre, perché, insomma, quelle cosa dovevo pagarle. Cosa vuoi pagare una moto del genere? Dipende cosa, ma già si trovano anche gratis molte volte, qualcuno che se ne vuole sbarazzare ti dà il libretto originale, vai, ti fai la targa e via, capito? Non spendi niente. Molte volte capitami anche gente che sta, come si dice, che sta svuotando il magazzino e ti dà la moto, capito? Allora, roba così, anche perché poi l'assicurazione, io lo sai che costa un bel, quindi devo risparmiare. Va bene, scusa un attimino che mi prendo un digestivo. Sì, avanti Gabi. Beh, Gabi non lo vede, ciao Antonio, mi hanno ascoltato. Ciao Franco, ma l'ho ascoltato anche a te. Cappa, sicuramente si è allontanato, si è assentato un po', lo digestivo era una pigliassa. Cappa, comunque ce li ho quei flessibili, costano 27 euro. Cappa, me l'ha detto Tino, me l'ha detto, infatti non so se te l'ha detto, adesso siccome ne ho due di quelli là, adesso mi consumo quelli, poi quando è te lo dico, intanto ne prendo uno e intanto se sono buoni. Sì. Oh, sto dicendo che sono tranquille, è roba seria. Capo, certo, certo. Allora, cosa stai combinando? Ma alle bombole sì adesso? Ah, sì, sì, alle bombole sono. E mi, stamane ero a prendere un meccanico. E poi stasera sono cazzato a travagliare. Ma c'è la moto rotta? No, gli ho cambiato i pezzi. Ma pezzi originali oppure l'hai modificato? No, gli ho messo il 70 della DR. Sì, sì. Che moto è? Viaggio Energy. Viaggio Energy? Non ce l'ho presente. Ho messo Luisa a Sassari. Le carene rosse, bianche e nere, con la città Piaggio sotto. Sì, sì, sì, sì. Caspita, oggi ho visto quelle motorette piccole, col cassone, quelle tipo quelle che erano prima tre ruote, adesso l'ho fatta quattro ruote. Caspita, ma belli a vero. Giambani, già. Cavolo, sono belle anche di come sono state fatte, c'è un bel cassone, ma bello davvero davvero, e ce l'hanno anche quelle della Mondezza qua. Sì, lo so, anche a Sassari ce l'hanno, è a P50. Esatto, ma sono a due busti di Idi. No, già andami beh, sono buone come molto. Uia. Gavi è rientrato, sì, non ha negato, chiede pieno lo digestivo, prima lo caffè e poi lo digestivo. No, sono qua. Stavo guardando attivino l'emissione, non microfonica, ma quella di ascolto. Gaba, andrà bene. Ma adesso qua sei Tino oppure sempre là a oltremare? No, sono qua in cantiere qua al quadrato. Mi Antonio già è venuto a trovarmi. Ci sono cantiere qua al quadrato ci avete? Sì, sì, sì, sono qua a quadrato, sto facendo praticamente la strada che porta da dove c'è il Conti al tappettino, dai. Cazzo, oggi quanto ne abbiamo? 7, 8, 9, e venerdì ci devo salire lì al Conti. Oggi è 7 ed è mercoledì, domani è giovedì, giusto? Il 9 venerdì. Sì, 9 venerdì. C'è un appuntamento il 9. Sì, sto facendo, però sono dall'altra parte, quasi diciamo più avanti, vicino al tappetino sono là. L'entrata del cantiere è... ma poi già vedi dal Conti si vede tutta quella strada, quella che praticamente ho pulito perché non ci passava un uomo, non ci passava, adesso bene o male è una pista di atterraggio di un aereo. Intanto non è che vado lì a cercarti, che sono anche con un'altra persona, con mia moglie, poi ce ne scendiamo, come finisco? Ma vi subito a Sassari, com'è che c'ha la peste? Razzista. No, mi so godognati, mi so, che fa una cosa o fa l'altra. Aspetta un attimino, scusate, ditemi se cambia la modulazione. Eccola qua, ha cambiato qualche cosa per cosa? Così, per causa? Ma per causa io ti ascolto molto, mi sembra che sia un po' più prepotente e è aumentato un bel segnale pure. No, il segnale non credo. Gavi? Sì. Aumentato il segnale? Sì. Mannaggia, ho scoperto un'altra cosa. Allora, io parlavo così, vedi un pochino. Però roteando questa manopolina magica e portandola anche così, giusto per essere arragantoso. Aiutino, mi è toccato a perseguirla, a pigliarla. È cambiato qualche cosa veramente? Certo che è cambiato. Non ci posso credere che... E io che... Ma ditemi se si sporca, Eccola qua. Si è sporcata? Troppo forte? No, va benissimo. E ha aumentato anche di segnale? Sì. Aspetta un attimino, io sto escogitando, ma così è troppo forte però, Credo che così sia troppo forte. Sì, 960 dB. Gavi. Ma non è fastidiosa, lascia. Allora, il Michelin sto usando, il Michelin adesso è a 70, cioè da 23 a 70 c'è un abisso. Però ricordati di metterlo a 23 quando vai in banda in AM. No, in AM era a 30, in banda a 23. Cavolo, ma aspetta che lo aumento, giusto per una prova. Adesso siamo a 90, il Mickey Gain è a 90, è fastidioso? No, però fastidioso da te. No, è bella proprio la modulazione, per me è migliorato. Addirittura, mettiamolo a 100%, questa è a 100. No, ma così è troppo, caspita, siamo 110%. Va bene, lasciala. Addirittura. Cioè da così 1, 2, 3, 4, 5, 6 a così 1, 2, 3, 4, 5, 6 vi ho fatto lo stesso passaggio giusto per vedere un pochino cosa cambiava. 10 dB e la modulazione è rimasta uguale. Sì. Perfetto, aspetta un attimino. E invece questo cosa cambia? Allora, 20, siamo a 24. Lo portiamo a 40, ha cambiato qualche cosa? Guarda un po'. Dei picchi vedo, in negativo però. Oh, allora devo abbassare, 24, facciamo 25, ora, e adesso? No, tranquillo. Va bene? Sì. È quello lo speed. È tutto da scoprire questa cosa, bisogna prendere e provarla bene. bisogna prendere e provarla bene. Adesso io ho provato a fare una cosa, poi si è sporcata la radio. No, per niente, io ho messo invece a 50 il Michele. Ok, adesso guarda, sto sempre aumentando, fammi uno squillo là a vedere quando va a sporcarsi. Prova radio, 1, 2, e, prova radio, test, e, prova radio, 1, 2, e, prova radio. Allora, vado ad aumentare un pochino, prova radio, test, prova radio, 1, 2, prova radio, test, prova radio, 1, 2, brutto. Basta con questo lecca lecca. Cosa vuol dire lecca lecca? Con l'eco, si sentiva molto il reverbero. Ma vai, un beh. Oris pro nobis, prova a fare così. Abemus papa. A Romarco di la messa. Si sente molto l'eco così? Non tantissimo, ma è presente, io l'avrei abbassato appena. Hai un reverbero di camera? Un reverbero di camera perché sono andato a sollevare un po' il master qua, Adesso l'abbasso un po' come era prima. E non si dovrebbe più sentire, è leggero. Guarda a vedere, la radio è sporca? No, non è che ti hanno fregato il mobile, non te ne sei accorto? No, ho cambiato postazione per quello, adesso gli do anche una pompatina di vattini. Ula, prova radio, 1, 2, prova radio, test, Aspetta che stavo bussando. Si sente ancora l'eco, fra? No, adesso meno. Prima le sentiva di più, no? C'hai sottofondo, tu c'hai un reverbero di camera, capito? L'ho messo io. Se voglio lo tolgo, è fastidioso. No, non è fastidioso. Antù, fastidioso è da te? No. E la radio come, va bene? Giaro grido già. Bene. Allora la lasciamo così. Fra, se non è forte, non dà fastidio, perché posso mettere anche un'altra cosa. E guarda a vedere, adesso è sporca. E prova radio, 1, 2. No, non è sporca, già va bene. Al limite apro la porta e ti ascolto da fuori. ho dato un po' più di motore, però adesso lo abbasso un pochino perché altrimenti consuma troppo e se ti ferma a una certa velocità poi è un casino. Va bene, ho inserito il processore. Ho inserito il processore anche. Ma il processore qua non va. Io direi di toglierlo. No, la radio è bella, perdon se mi permetto, La radio è bella, hai un effetto camera, insomma, che non dispiace, però si sente che c'è, capi? Il processore non disturba, perlomeno io parlo sempre per il mio ascolto, poi nell'altra radio adesso non so se disturba o meno, questa fa un pochino di più.